Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Quanto la musica classica ha influenzato la musica moderna, quanto le opere di gente come Beethoven, Mozart, Chopin, Bach soprattutto, quanto di tutte queste persone si ritrova tra le note diciamo dai Beatles in avanti. Beh, sicuramente la musica classica ha gettato delle basi sulla musica moderna, è stata fonte di ispirazione di grandi musicisti e c'è un genere che più di tanti altri ha saputo coniugare le sonorità del rock con le melodie classiche. È un genere che ha avuto il suo massimo sviluppo all'inizio e per tutta la prima metà degli anni 70 e poi anche per la seconda, e poi è stato diciamo così preso a spallate da un genere un po' più immediato e di forte impatto, cioè il punk. Insomma, è una storia che io conosco molto bene. Il genere di cui parlavo è il progressive rock. Oggi raccontiamo la storia di un esponente anche di questo genere musicale, però è anche un rocker, è uno che ha suonato in band molto diverse, è una persona duttile che ha avuto però dalla sua una grande tecnica e una voce inconfondibile. Insomma, sto parlando del grande John Wetton. Sono parecchie le teorie su quale sia stato il momento esatto della nascita del progressive rock. C'è chi parla dei Moody Blues, dei King Crimson, quindi di fine anni 60, però forse il primo album che comincia a essere in odore di prog è il capolavoro dei Beatles, Sgt. Pepper. Da molti viene considerato, insomma, il pilastro, anche perché lì entra in gioco anche la musica classica, la musica orientale, la psichedelia e tanto altro. Siamo nel 67 quando esce Sgt. Pepper. John Wetton ha 18 anni e quindi subisce sicuramente le influenze di questo nuovo stile musicale che sta prendendo piede soprattutto nella zona londinese, in Inghilterra, ma soprattutto a Londra, come quasi sempre accade, cioè le cose che arrivano a Londra poi 5, 6, 10 anni dopo arriveranno anche da altre parti. Londra era piena di piccoli locali dove riuscivi ad ascoltare molti di coloro che poi in seguito sono diventati famosi. Pink Floyd, Genesis, Jethro Tull. Erano posti straordinari ed era molto divertente perché tutti conoscevano tutti. Era come un paesino e si poteva facilmente collaborare. John Wetton è un cantante, soprattutto un bassista, comincia a collaborare con molti gruppi nel 71, entra nei Mogul Trash, ma soprattutto l'anno dopo entra nei Family di Roger Chapman a sostituire John Wyder. Suona in due album, però la sua è solo la prima parentesi, una parentesi che durerà meno di un anno. Sappiamo che la vita è fatta di incontri, ancora di più la vita dei musicisti. Un incontro tra musicisti può cambiare la vita dei due, ma anche la storia della musica. Ecco, l'incontro cruciale è quello con Robert Fripp. È un chitarrista che ha scritto la storia della musica, che sarà poi partner anche di gente come David Bowie, Peter Gabriel, David Sylvian, Brian Eno. È l'uomo che nel 68-69 ha creato una band che si chiamerà King Crimson. È un intellettuale del rock, ha una genialità incredibile, un grande talento che va oltre ogni schema, ogni restrizione, uno che ha sperimentato strade musicali svariate. Insomma, mi auguro che lo conosciate anche a fondo. I King Crimson sono una band che ruota attorno a Bob Fripp, unico membro presente nella storia dei King Crimson dall'inizio. I bassisti sono un ruolo particolare, lui li cambia spesso all'inizio. Prima c'è Greg Lake, poi arriva Boz Barrel, arriva Gordon Haskell. Sono bassisti cantanti tutti e tre. Poi i King Crimson si sciolgono temporaneamente dopo un album dal vivo che farà epoca. Quando si ricompongono, Bob Fripp chiama a incarnare il ruolo di bassista cantante proprio lui, John Wetton. e l'arrivo di John Wetton ha un effetto dirompente, perché lui è un grande bassista, però ha una voce particolare, calda, profonda, che diventa un aspetto fondamentale per il successo di questi nuovi King Crimson. Anche perché ci sono grandi musicisti, c'è Bill Bruford che aveva lasciato gli Yes per unirsi a Bob Fripp, poi c'era David Cross che era un po' l'istrumentista, soprattutto violinista, c'era anche un percussionista inizialmente, si chiamava Jamie Muir. Escono tre album, il primo è Lark's Tongues in Aspic, poi c'è Starless and Bible Black e poi i King Crimson rimangono in tre, Fripp, Wetton e Bruford, ed esce un album mitico che si chiama Red. Il tutto accade praticamente in poco più di due anni, tra il 72 e il 74, sì, sono anni in cui si fa uno, due album all'anno, si fanno tournée, sono gli anni dei grandi colpi d'ala. I King Crimson sono particolari nello scenario progressi perché sono sicuramente i più colti, i più complessi, i più sperimentali. Questo lo si nota anche durante le esibizioni dal vivo, con dei brani che non vengono mai suonati nello stesso modo. Ci sono delle improvvisazioni, però è anche vero che a tessere le fila dietro c'è sempre Bob Fripp, quindi parlerei di improvvisazione controllata. E il primo album di questa trilogia è innovativo anche dal punto di vista degli strumenti. Naturalmente c'è l'immancabile Mellotron che Fripp alterna alla chitarra, ma ci sono anche campanelli di bicicletta, il gong, giocattoli, sì, perché c'è questo Jamie Moore, il percussionista, che inventa suoni che ben si combinano con la chitarra di Fripp, col basso di John Wetton. Insomma, il primo album è già un colpo d'ala. Il falco e il gabbiano. Passano pochi mesi praticamente e i King Crimson stanno già lavorando a Starless and Bible Black, il secondo album di questa nuova formazione così sperimentale, così innovativa. Sentite cosa dice a questo proposito il critico inglese Michael Shore. Per me la formazione del 1972-74 fu la più grande edizione dei King Crimson. Dirò di più, penso obiettivamente che sia stata una delle più grandi formazioni della storia del rock. Questi Crimson non scherzavano, non era più musica per ragazzini, ma una faccenda molto più seria ed evocativa. I musicisti sapevano suonare veramente, non interpretavano mai un brano allo stesso modo, ma si adattavano all'umore e alle atmosfere che incontravano durante il loro interminabile girovagare. Erano anni di lavoro duro, si stava in tour sempre, anche 16 mesi nel caso dei King Crimson in quel momento, ma si lavora anche in studio. Così nel 74 arriva il terzo album, dove, come ho detto prima, rimangono solo in tre, Fripp, John Wetton e Bill Bruford alla batteria. Ma Fripp sta vivendo un momento di crisi, molti musicisti stanno esplorando le facce del misticismo, c'è un fermento culturale particolare, santoni indiani, mistici, comunità hippie e tantissima droga, e così anche i King Crimson, insomma, vivono un momento delicato perché Fripp ha un esaurimento nervoso. Insomma, lui è sempre stato una persona molto particolare. Insomma, l'album Red è un album meraviglioso, tutto è pronto per un tour mondiale, ma il gruppo non regge e si scioglie. Era un momento di stanchezza. I King Crimson in quel periodo avevano un certo livello di popolarità. Ai concerti venivano circa 4.000 persone. Eravamo pronti per fare il grande salto, ma poi arrivò una telefonata da Robert Fripp che, con il suo inconfondibile accento del Dorset, ci disse che non ne voleva più sapere e che si sarebbe preso una pausa di almeno un anno. Io mi sentivo come un bambino a cui è stato tolto il giocattolo più bello. Chiusa la parentesi coi King Crimson, John Wetton ha un periodo di transizione. Prima entra a far parte di una band super rock, cioè gli Uriah Heep, nei quali era morto Gary Taney, il bassista. E poi addirittura invece va alla corte di Brian Ferry nei Roxy Music, quindi il rock invece più sofisticato. Però John Wetton sente il bisogno di formare un suo gruppo per portare avanti la sua idea di fare musica. E così nel 1978 nascono gli UK, una band che Wetton ha fondato assieme al suo precedente sodale, cioè Bill Bruford, che aveva già suonato peraltro con gli Esco, i King Crimson. È un gruppo che ha una vita breve, due album in studio, uno dal vivo, però lui lì comincia a esprimere la sua musica, che è una musica difficile, complessa, con brani anche lunghi come usava in quegli anni. Però comincia, come dire, a tornare in auge con John Wetton la formula canzone, anche magari di 7-8 minuti, però è uno studio degli arrangiamenti molto curato, e in mezzo a questi arrangiamenti primeggia la voce di John Wetton con i suoi testi. La maggior parte dei testi è personale, frutto di esperienze personali. Vedi, io non sono mai stato a favore dei testi dell'era hippie. Io sono molto più realistico. Penso che si debba abbandonare il filone fantasy di quel periodo e tornare indietro alla realtà. Non mi interessa che ascoltando i miei testi tu venga proiettato nel cosmo, anche perché c'è molta meno gente adesso che fuma e prende acidi. La gente che viene ai concerti oggi vuole semplicemente sedersi e ascoltare buona musica. John Wetton è sempre un passo avanti rispetto alle mode del momento, e in questo caso comincia a dare al progressive un volto anche più fruibile da parte di un pubblico più vasto. È una scommessa che John Wetton sta per vincere. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di John Wetton, cantante dalla voce inconfondibile, grande bassista dei King Crimson, in quello che probabilmente è stato il periodo d'oro dei King Crimson, tre anni con tre album che fanno parte della storia della musica. È sempre definito un intellettuale del rock, ha saputo dare sfogo anche dopo i King Crimson alla sua grande creatività. Poi nel 74, dopo lo scioglimento dei King Crimson, John Wetton comincia a prendere in mano direttamente il suo destino, si dedica a un primo suo gruppo che sono gli UK e pubblica tre album, poi le strade si dividono ancora. John Wetton prova un'esperienza da solista, però gli manca il grande spunto, forse gli manca anche il grande successo commerciale, ma lui in realtà è un uomo da band, è un grande assemblatore di progetti di band, e lui è convinto che la musica è la collaborazione tra grandi musicisti in grado di portare ognuno la sua esperienza per metterla a disposizione degli altri. Quando abbiamo fondato gli UK eravamo un trio e poi siamo diventati un quartetto. Ma noi in quel momento non stavamo cercando qualcuno a cui affidare il 25% dei guadagni del gruppo. Cercavamo un buon chitarrista che desse il giusto apporto alla musica della band. Ecco perché poi, nell'album successivo, siamo di nuovo tornati a essere tre. Perché dopo l'apporto di una chitarra aggiuntiva sembrava essere inutile. John Wetton è il teorico delle grandi collaborazioni, è uno che dice che le collaborazioni sono necessarie per creare la musica in un determinato momento, l'esplosione della creatività che amplifica il talento di ogni componente. E così nel 1981 John Wetton punta in alto, crea un super gruppo. C'è Steve Howe alla chitarra, chitarrista degli Yes, c'è Palmer, Carl Palmer, batterista di Emerson, Lake e Palmer, e poi c'è Geoff Downes, che era stato il tastierista dei Buggles e poi tastierista degli Yes, e poi c'è lui, quindi quattro talenti puri, grandi teste pensanti che riescono a mettere assieme le loro esperienze per sfruttare l'esplosione di creatività che il loro contatto genera. Nascono insomma gli Asia, che escono con un singolo emblematico, si chiama The Heat of the Moment, è un successo spaventoso. The Heat of the Moment si ferma alla posizione numero 4 in classifica, ma poi esce l'album e l'album vende 9 milioni di copie, la posizione numero 1 tenuta saldamente a lungo nella classifica Billboard. E gli Asia riescono a creare un rock prog progressive che in qualche modo riesce ad adattarsi non solo alle classifiche di vendita, ma anche alle radio. Brani lunghi, ma con Wetton che riesce con la sua voce a addolcire determinate spigolosità, magari ci sono meno assoli, meno virtuosismi, tutto è reso più fruibile anche da parte del pubblico, come dire, meno abituato alle difficoltà del progressive rock. Devo dire che ciò che cambiò veramente le cose fu la nascita di MTV. Un canale che trasmetteva solo video musicali era un nuovo strumento di comunicazione e soltanto uno stupido non ne avrebbe approfittato. Quando la musica progressive è nata, prendeva canzoni da 3 minuti e con gli arrangiamenti le trasformava in canzoni da 10 minuti. Noi non abbiamo fatto altro che tornare alle origini, eliminare quei 7 minuti in più di arrangiamento e suonare solo la canzone originale di 3 minuti. Nel 1983 esce Alpha, il secondo album, che ovviamente non può ripetere i numeri del primo, si ferma, se così si può dire, solo a 4 milioni di copie. Cominciano i primi malumori in una band nella quale ci sono 4 teste pensanti, 4 persone che sarebbero state ognuna un grande leader di una sua band. Le prime frizioni avvengono proprio tra John Wetton e Steve Howe. Ognuno di noi aveva molti impegni al di fuori del gruppo. Steve era impegnato con gli Yes, voleva intraprendere una carriera da solista, ma le cose tra noi non andarono bene quando lui pensò che bisognasse tornare a inserire lunghi assoli all'interno delle canzoni, allungarle di nuovo. E questo era esattamente il contrario di quello che volevo io. Il gruppo si divide, si riunisce, poi esce un terzo album, Astra, che non ha molto successo, e questo segna la fine del gruppo. Ma Wetton torna a fare quello che ha fatto per tutta la sua carriera: grandi collaborazioni con musicisti. Per esempio c'è il grande incontro che si ripete nel corso degli anni con Phil Manzanera, con delle canzoni meravigliose dell'album Diamond Dead di Manzanera, quindi del 75, e poi collaborazioni che continueranno anche negli anni 80. Nell'86 si suona ancora assieme con Phil Manzanera, c'è anche Alan White di Area Yes presente. Certo non nasce un super gruppo, ma ci sono grandi collaborazioni per grandi musicisti. Poi gli anni passano, il fisico comincia a dare qualche problema. Nel 2007 deve sottoporsi a un triplo bypass per problemi al cuore, lascia il tour europeo che aveva iniziato ancora una volta con gli Asia. Poi intanto musicisti che si avvicendano, anche se John Wetton non pensa mai agli Asia come un'esperienza chiusa, in qualche modo ogni tanto riapre quella porta per sua stessa natura, e il supergruppo è un supergruppo, e quindi ognuno se ne va e torna ogni tanto a ricreare quella magia. Nel 2014 gli Asia sono tornati ancora una volta, ahimè per l'ultima volta, forse per chiudere le cose lasciate in sospeso. Penso che ci fosse la comune sensazione di aver lasciato del lavoro incompiuto negli ultimi 18-20 anni. Ci siamo separati, abbiamo collaborato tra di noi, ma non siamo più riusciti a risalire sul palco tutti e quattro come un tempo. Abbiamo sentito il bisogno di riprovarci per vedere di far funzionare le cose che ci avevano allontanato. Nel gennaio del 2017 John Wetton è morto per un tumore a 67 anni. Ha lasciato un grande vuoto non solo nella musica prog, ma nella musica in generale. La sua voce è sempre stata inconfondibile, ha scritto dei grandi testi e ha suonato il basso in una maniera particolare, poche note ma quelle belle. È un uomo che ha inseguito il suo modo di fare musica, magari ha avuto dissapori con le persone che avevano accanto, ma ha toccato veramente con mano la storia, da Fripp agli Asia ai Roxy Music alle grandi collaborazioni, e insomma è uno che sta nell'Olimpo ed è anche in un posto particolare. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falco il gabbiano @radio24.it se anche voi conoscete